Il problema è, a mio avviso, abbastanza semplice, nel senso che il dibattito sul debito americano era abbastanza politico, come appunto diceva il professore, ed ha ragione, non era così rilevante. Il problema è un altro. Il problema è che abbiamo un continente americano, gli Stati Uniti d'America, che sono oberati da un debito gigantesco, anzi adesso hanno trovato l'accordo per aumentarlo, e quindi è un grosso problema. L'Europa uguale, oberata da grandissimo debito, soprattutto alcuni stati, ma comunque in tutti gli stati il debito sta aumentando. La domanda è come si rimborsa, come uno stato può ridurre il debito? Con la crescita economica. Quello che serve è crescita economica. Il problema è che i dati che stanno uscendo economici di questi giorni danno la sensazione diametralmente opposta. L'economia sta rallentando sia negli Stati Uniti sia in Europa. Parlavate prima del dato sul PIL americano uscito settimana scorsa, disastroso. Oggi il dato che ha fatto la miccia che ha fatto girare le borse e l'ha fatta crollare improvvisamente è il dato sull'indice manifatturiero dell'attività manifatturiera negli Stati Uniti. Questo è un indice che si calcola in punti. Solitamente quando l'indice è sopra quota 50 vuol dire che l'economia sta crescendo. Quando è sotto quota 50 vuol dire che sta decrescendo, diciamo che sta rallentando. Ebbene, a luglio il dato è calato, da giugno a luglio è calato da 55,3 a 50,9, quindi ancora poco sopra i 50, ma molto basso, proprio al limite. Se questo si è ben sotto le aspettative degli economisti, se questo si somma che lo stesso dato in Gran Bretagna, l'ultimo che è uscito è a 49,1, quindi sotto 50, quindi vuol dire che in Gran Bretagna l'economia invece si sta restringendo, sta calando ed è la prima volta che usciva sotto 50 dal 2009. In Europa è anche lì al limite. Questo cosa vuol dire? Che l'economia in Europa, in Gran Bretagna, che, no, che è Europa ma non area euro, e negli Stati Uniti non decolla. E quindi rimborsare i debiti, ridurre il debito pubblico sarà ancora più difficile. Questo è il vero problema che i mercati vedono. Il problema è la crescita economica che non c'è, una recessione, anzi, addirittura tanti economisti iniziano appunto a abbassare le stime di crescita sia sugli Stati Uniti che sull'Europa e iniziano a vedere nero dal punto di vista economico. E quindi questo, la crescita economica che non c'è e stenta a decollare, peggiora la situazione sul debito pubblico che appunto per essere rimborso, per essere ridotto necessita appunto di crescita economica. Quindi i mercati oggi cosa hanno fatto? Hanno visto una zattera americana che ha sì raggiunto, i repubblicani democratici hanno raggiunto l'accordo sul debito, ma è ancora oberata da tantissimo debito con una crescita economica che non c'è. La zattera europea, idem, ha alto debito e crescita economica che non c'è. Quindi, non sapendo in quale zattera saltare, da quale zattera saltare, gli investitori hanno iniziato a vendere i titoli più deboli, dei paesi più deboli, quindi l'Italia, quindi i soliti paesi periferici europei, quindi hanno iniziato a vendere le banche, poi è salito lo spread tra BTP e Bund, quindi hanno venduto titoli di Stato italiani, perché il problema è questo, che se ci fosse l'Europa solida e l'America in crisi, tutti gli investitori andrebbero in Europa e lascerebbero l'America, ma dato che la crisi è da una parte e dall'altra parte dell'oceano ed è abbastanza simile, grosso debito e bassa crescita economica, non sapendo da quale parte in quale zattera salvarsi, perché tutto sta veramente con l'acqua alla gola, è ovvio che i mercati vendono, poi chiamiamola speculazione, chiamiamola panico, entrambe le cose sicuramente, vendono i più deboli, i titoli più deboli, quindi principalmente l'Italia. Non è un caso che Piazza Affari sia la peggiore oggi.